Ritroviamo Michele Santeramo, autore ed attore nel lavoro Leonardo da Vinci, l'opera nascosta che sarà al Teatro Brancaccino di Roma il 24 e il 25 marzo. Ben ritrovato Michele. Grazie, ben trovato a te e a tutti. Allora, ci racconti di questo nuovo lavoro? Sì, allora si tratta di un testo che io faccio da solo in scena, raccontando stavolta, quindi da puro narratore. In scena con me ci sono i disegni di Cristina Garduni, è la seconda volta che collaboriamo con Cristina, la prima volta è stato in un altro spettacolo che si chiamava La prossima stagione, c'erano le sue immagini. E io raccontavo in quel caso il dialogo tra i due personaggi ritratti in quelle immagini. Invece questa volta le immagini sono dietro di me che racconto, c'è un piccolo tavolino, ho i miei fogli e sono seduto lì a cercare di raccontare questa nuova vicenda, su nuova, questa è la sfida più grossa, su Leonardo da Vinci. Dico nuova e sorrido perché quando ho cominciato a lavorare su questa cosa qua avevo la certezza che il mondo non aspettasse me per avere qualche informazione in più su Leonardo. E quindi questa è stata una delle prime difficoltà che ho incontrato, che però poi si è rivelata nel percorso di scrittura, forse la più grande delle risorse. Senti, non è che hai preso il via dopo il nulla facente nel tuo ritorno in scena? Sì, Nulla facente è un'esperienza per me ancora più straordinaria rispetto a Leonardo, perché gli spettacoli dietro un leggio, diciamo che non li ho mai abbandonati, li ho sempre fatti. Invece Nulla facente, dove non c'è un leggio e sono in scena in relazione con gli altri attori, quella è un'esperienza veramente nuova e divertente, e molto utile, poi utile anche al mio lavoro d'autore, perché stando in scena su un tuo testo hai la possibilità di scoprire ancora meglio delle intenzioni all'interno delle battute che poi puoi studiare con più precisione. Magari nel prossimo testo non sarà necessario che sia in scena per capirle prima. Senti, Leonardo, com'è partito tutto? Partito perché, sempre seguendo ormai questa ricerca di personale, assolutamente personale, che sto facendo, sui temi che riguardavano anche il Nulla Facente, che riguardano anche altri testi che ho scritto con lo stesso titolo, o per certi versi Uomini e No, o anche un altro testo che si chiama Il Gentiluomo, che però non è ancora stato rappresentato. Mi sono reso conto che sto ragionando sempre di più di gente che si mette in qualche modo ai margini, consapevolmente ai margini di quello che sta capitando, perché di fatto quello che sta capitando non è che gli piaccia poi tanto a queste persone. E c'è una cosa sopra tutte che non piace alle persone di cui scrivo, ma credo non piaccia proprio a nessuno, ed è un fatto essenziale, ed è che si muoia. La morte, questa cosa qua fa veramente schifo, dice ad un certo punto Leonardo, che se ne rende conto. Allora, riflettendo su questo tema qui, ad un certo punto mi sono chiesto: ma chi è che può darmi spiegazione? A chi posso fare questa domanda? Che cosa sia la morte, se sia davvero inevitabile? L'unico a cui potevo fare la domanda era un genio assoluto. Soltanto lui poteva aiutarmi a cercare una risposta o fornirmi una risposta. E quindi ho interrogato Leonardo su questo. Quindi lo spettacolo in realtà non racconta la vita di Leonardo da Vinci, questo lo dico all'inizio del testo, dico che la vita di Leonardo non aspettava certo mai per essere raccontata. Però racconta questa vicenda particolare, cioè il momento in cui Leonardo da Vinci, lui, artista, filosofo, genio, scienziato, eccetera, eccetera, lui capisce, spera anzi, poi capisce che la morte non sia inevitabile e prova a sconfiggerla. E questa è la sua opera nascosta, quella di cui ancora fino ad ora non si era parlato. Senti, l'idea di questa messa in scena con te e le immagini? Continua questo lavoro sulla narrazione sostenuta dall'utilizzo di queste immagini, che sono immagini pittoriche dal mio punto di vista straordinariamente belle di Cristina, che cercano in questo caso, sono quasi tutti, al 99% sono primissimi piani dei personaggi che Leonardo incontra all'interno di questo percorso. Abbiamo voluto proprio, come posso dire, centrare l'attenzione sui singoli volti, ancora una volta non sulle comunità, non sui gruppi, ma sulle singole persone. Questa è una delle cose che ho imparato riscrivendo la Uomini e No di Vittorini. Ad un certo punto lui dice una cosa che veramente mi ha aperto una grande riflessione, magari per qualcuno una banalità, per me non lo è affatto. Lui dice: se il fascismo e il male esistono è perché sono nell'uomo, se non fossero nell'uomo non potrebbero esistere. lui. Se queste cose qua, se il male è nell'uomo, anche la soluzione è nell'uomo, ma non nell'umanità, nel singolo uomo. Allora in questo caso abbiamo voluto mettere Leonardo di fronte ai singoli volti con i quali ogni volta si relaziona, e quindi i disegni rappresentano questo tipo di personaggi con i quali Leonardo, a cui io presuntuosamente presto la voce, con i quali dialoga per scoprire proprio per cercare una risposta a queste domande, se la morte sia inevitabile. Tra questi ovviamente c'è il suo personaggio che nello spettacolo è essenziale, e cioè la Gioconda, che noi nello spettacolo conosciamo però molto più giovane di quella che poi viene adesso visibile a lungo. All'inizio dello spettacolo, nel rapporto tra la Gioconda e Leonardo, lei è molto, molto più giovane. Michele, cosa ti piace di Leonardo? Non so se noi, io dico sempre così, ma non so se poi la cosa è assolutamente difendibile, perché non so se esiste qualcosa di assolutamente difendibile. Mi sembra però di vivere in un'epoca che ha un po' povera di maestri veri, maestri pieni di sapienza. Leonardo mi ha dato l'occasione, studiandolo e ragionando su questo testo, di affezionarmi ancora di più a quella sapienza e di potermi distanziare da quello che invece noi adesso chiamiamo pura conoscenza, e che viene purtroppo, lo dico sempre, dall'utilizzo sfrenato che noi facciamo, inevitabilmente sfrenato, che continueremo a fare, di tutte le possibilità tecnologiche che abbiamo. Cioè, queste ci consentono, oggi come oggi, se non sappiamo che cosa sia una parola in spagnolo, ci consentono di andare su qualunque dizionario online e di trovarne il significato. Ma siccome è sempre a portata di mano, no, non diventa mai nostra vera sapienza, perché in fondo noi sappiamo che ogni volta che ne avremo bisogno sarà sempre lì e andremo di nuovo a cercare. Quindi non abbiamo più bisogno di sapienza, non la frequentiamo più. Invece Leonardo porta con sé la necessità della sapienza, di quelle cose che poi ti rimangono dentro e che ti sono utili ogni giorno per coltivare un pensiero. È questo che mi ha colpito tantissimo di questa frequentazione di questi mesi con Leonardo da Vinci. Di nuovo una produzione Fondazione Teatro della Toscana. Sì, è una collaborazione che ormai è molto frequente, pur non avendo contorni di stabilità, perché poi io comunque di esclusiva, diciamo così, perché io comunque poi collaboro anche con altri teatri, altri registi e altre produzioni, però indubbiamente uno di quei legami per me molto molto forti, che mi sono anche molto utili nel mio percorso di approfondimento e di crescita, perché insomma lavorare con Roberto, con Luca e con tutti quelli che sono lì e che stanno molto più spesso a Pontedera e al Teatro della Toscana è comunque sempre uno stimolo a cercare un po' più profondamente, a guardare un po' meglio dentro, e questo per chi fa il mio mestiere è determinante. 24 e 25 marzo al Teatro Brancaccino a Roma e poi prosegui. Poi quest'anno ci sono ancora altre due o tre repliche in Toscana, e poi come al solito poi la distribuzione vera e propria, che è già cominciata, ma penso che poi continuerà, diciamo, nella stagione tra ottobre del 2018 e l'inizio del 2019. Bene. Allora, Michele, un abbraccio, un in bocca al lupo e di nuovo ci si vede a teatro. Grazie, grazie Rodrigo. A presto, grazie a tutti.